prima edizione. L'informazione del mattino. Le 6:15 minuti e 44 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Un paio di notizie arrivate da poco. La prima arriva dall'India. Una delegazione italiana ha ispezionato il peschereccio St. Anthony, dove si trovavano i pescatori indiani uccisi lo scorso 15 febbraio e sequestrato dalla guardia costiera in un porto nello stato meridionale del Kerala. Morte dei due pescatori, per la quale, come sapete, sono accusati due militari italiani. La delegazione italiana ha esaminato la chiglia alla ricerca di eventuali foridi proiettili e scattato diverse fotografie. Altra notizia è una notizia di sport che è arrivata da pochissimo. È la fine della partita dell'All-Star Game, che come sapete mette a confronto l'Ovest e l'Est di basket, nel basket degli Stati Uniti. Si è giocato ad Orlando per la prima volta dopo 20 anni. A vincere sul podio è salito Kevin Durant, classe 88, maglietta numero 35 con l'Oklahoma City Thunder. Ha vinto l'Ovest contro l'Est 152-149. Da segnalare il fatto che Kobe Bryant ha battuto un importante record: il fuoriclasse dei Lakers è riuscito a superare Michael Jordan come miglior media punti per partita in carriera, mettendo a segno 27 punti. Adesso è il momento della viabilità, ci ritroviamo tra un attimo per un quadro delle prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. Sono le 6:18 minuti e 52 secondi. Vediamo di dare un'occhiata a quello che troviamo oggi sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura è sugli stipendi, la notizia che vi abbiamo dato anche poco fa nel nostro giornale radio. Gli stipendi, il titolo è: stipendi tra i più bassi d'Europa, le cifre Eurostat sui salari. Il ministro Fornero che dice: la trattativa, vorrei l'intesa, ma niente levate di scudi. In particolare sui salari, agli italiani la metà dei tedeschi, e la Fornero che dice: il sistema è da scardinare. Titoli e due foto per la giornata calcistica, per il weekend calcistico per meglio dire, e sono una: la sconfitta dell'Inter, sconfitta e Ranieri in bilico, e un pezzo a firma di Fabio Monti dal titolo: adesso l'Inter non c'è più. E poi i veleni di Milan e Juve. Si sottolinea la posizione, per così dire, di Gigi Buffon, il gesto mancato di Buffon, il titolo del pezzo di Daniele Dallera. Sarebbe stato bello se Buffon avesse detto, alzando la sua mano d'oro: quello era gol. Il commento di prima pagina è dedicato alla classe dirigente italiana, a firma di Ernesto Galli della Loggia, e il titolo è: un club esclusivo di una certa età. E vi segnaliamo sempre dal Corriere l'osservatorio di Renato Mannheimer: solo l'8% degli elettori stima ancora i partiti. Ci sono dettagli per quanto riguarda l'ICI per gli edifici di proprietà del Vaticano, così l'ICI sulle scuole cattoliche. La linea del governo è esenzione per la stragrande maggioranza degli istituti, non pagheranno le scuole se aperte a tutti e senza profitti. Di taglio basso il caso, ossia si parla di sanità e dei conti in rosso e degli sprechi e dei ritardi. Si parla di rischio bancarotta in 7 regioni. Vi segnaliamo anche questa vicenda che francamente ha dell'incredibile. È il processo per, lo ricorderete, la testimone di giustizia Lea Garofalo, sciolta nell'acido, ma per la legge non è vittima dell''ndrangheta. Il pezzo è a firma di Giovanni Bianconi. La Repubblica decide di aprire invece proprio sulle regioni, sulle difficoltà, sui buchi nella sanità delle regioni. Ecco l'Italia degli sprechi, mala sanità, appalti, consulenze, la Corte dei Conti denuncia emergenza, il rapporto dei magistrati contabili sulle risorse pubbliche bruciate regione per regione, un buco grande come l'evasione fiscale. Si parla anche dello scontro tra i poli sulla prescrizione che Repubblica chiama Salva Berlusconi, della quale vi abbiamo parlato anche poco fa all'interno del giornale radio, sentendo le voci delle due parti. A centropagina naturalmente la questione dei salari: abbiamo i salari più bassi d'Europa, Fornero che dice produrre di più e il G20 che dice invece sostenere l'occupazione. Interessante anche, oltre al titolo dedicato al calcio e a Inter e Roma che affondano e le polemiche che proseguono sugli arbitri, racconto a firma di Riccardo Luna sull'email che compie 40 anni e dice la migliore, dice Riccardo Luna, è sempre all'alba. Veniamo al Messaggero, stipendi italiani tra i più bassi è il titolo principale. Il titolo invece di calcio è dedicato alla Roma, scoppia il caso De Rossi, ne abbiamo già parlato appunto anche qua in GR Sport, ascoltando che cosa ne dice Luis Enrique, l'allenatore. Scoppia il caso De Rossi, Lazio un close da derby. E poi a centropagina l'appello dei sindaci al governo, sbloccare i fondi per le città, i comuni, basta punire chi ha i conti in ordine, in gioco 11 miliardi. Da segnalare anche questa notizia che ha il Messaggero oggi in prima pagina, che riguarda Finmeccanica, c'è un nuovo fronte d'inchiesta a quanto pare, una commessa di elicotteri Augusta Westland, Finmeccanica, inchiesta in India, questo il titolo del Messaggero. Infine vi segnaliamo sempre dal Messaggero un pezzo, un intervento come vogliamo chiamarlo, a firma del sindaco di Roma Gianni Alemanno, faremo crescere il Festival del Cinema con nuovi eventi e film internazionali. E poi solo il Messaggero, quasi solo il Messaggero, riporta in prima le parole di Domnica Zemortan, la giovane ragazza moldava che era sulla plancia di comando della Costa Concordia al momento dell'incidente. Dice: quella sera acciai, schettino, saremmo andati oltre, ma poi la nave è affondata. La Stampa, stipendi Italia maglia nera il titolo, grande foto al centro e molto bella che riguarda la Russia, Mosca la catena umana che sfida Putin ad una settimana dal voto, un girotondo di 20.000 persone contro il vincitore annunciato. Segnaliamo anche il reportage che arriva da Kerala, dallo stato di Kerala, dove come sapete sono stati fermati i due militari italiani Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, Massimo Numa. Sono riusciti i due, attraverso i cancelli dietro i quali si trovano, a urlare ai cronisti che stanno bene e che non sono soli. Gli altri 9 soldati italiani, soldati e marittimi che si trovano là nello stato di Kerala, non possono lasciare la nave ancorata a poche decine di metri dal pontile di un terminale petrolifero in disuso. Vi abbiamo detto poco fa del sindaco di Roma Gianni Alemanno, che scrive a proposito del Festival del Cinema di Roma al Messaggero. C'è un titolo che arriva dalla Stampa e dal fronte torinese. Amelio che dice: Roma vuol cancellare il film festival, arrogante mettere la rassegna a ridosso di quella di Torino. Intanto segnaliamo sempre dalla Stampa un'inchiesta, la crisi, i buchi neri, i primi segni di svolta. Il titolo è Pianeta Occupazione, viaggio in un'emergenza tra fallimenti e ripresa. E ci sono due storie che vengono raccontate, quella di Crotone, dove l'industria ormai non c'è più, la provincia calabrese è caso emblematico del deserto occupazionale, e Carbonia Iglesias, le multinazionali in fuga dal Sulcis, la disoccupazione raddoppia nel luogo simbolo della transizione

rimedio non funziona e ha incominciato a esaminare questi ricorsi e mano a mano e concedere dei risarcimenti per questi ritardi, che sarebbero proprio ritardi sul giudizio sui ritardi. E l'Italia in controluce, prima edizione, 27 febbraio, torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24. Le 6, 38 minuti e 14 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia e adesso parliamo di Oscar. And the Oscar goes to The Artist. Thomas Lennon, producer. Marta Cagnola, buongiorno. Buongiorno Simone, parlano francese gli Oscar 2012 e The Artist. Sentiamo il momento della proclamazione, infatti il miglior film dell'anno secondo l'Academy, ma anche il vincitore delle statuette più pesanti. Ha vinto anche miglior regia e miglior attore protagonista Jean Dujardin, eppure colonna sonora e costumi, quindi 5 premi in tutto, così come Hugo di Martin Scorsese, che però si deve accontentare di riconoscimenti più tecnici, i 2 Oscar per il suono, mixing e editing, effetti visivi, fotografia e fortunatamente scenografia, perché questo è l'Oscar italiano per Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, che non è una novità tra l'altro. No, 2 veri primatisti, perché per la coppia si tratta del terzo Oscar in carriera dopo quelli vinti nel 2004 per The Aviator e nel 2007 per Sweeney Todd. Altre 6 volte erano stati nominati senza conquistare il riconoscimento, ma ecco la gioia nel backstage di Dante Ferretti, così come è stata colta al volo da Sky. Insomma, voglio dire, dopo tante nomination, poi abbiamo avuto questi ultimi 3 Oscar together, insieme, poi sono talmente felice perché ho avuto un grande regalo. Oggi è il mio compleanno. Oh, auguri. Bene, Ferretti, Marta, noi nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, siamo stati quasi travolti dalle immagini, da altre immagini italiane, cioè sono quelli di un cortometraggio che ci hanno fatto vedere praticamente in qualsiasi telegiornale, dandolo come quasi certo vincitore all'Oscar. Che fine ha fatto? Ci speravamo, La Luna di Enrico Casarosa, che peraltro uscirà al cinema in settembre insieme all'ultimo film Pixar, The Brave Ribelle, non ce l'ha fatta, l'altro candidato italiano Enrico Casarosa è stato sconfitto nella categoria miglior corto animato da I fantastici libri volanti del signor Morris Lesmore. Abbiamo prima, Simone, menzionato il miglior attore, ma non ancora la miglior attrice. Qui entriamo nella storia, perché è la 3ª statuetta su 17 nomination, le manca insomma solo un Oscar per arrivare a Katharine Hepburn. Non è difficile indovinare di chi stiamo parlando. When they called my name, I had this feeling I could hear half of America going, oh, no. Oh, come on, why? Her. Again, you know? But, whatever. Meryl Streep, che ha iniziato così il suo discorso, il suo acceptance speech: quando hanno detto il mio nome ho avuto la sensazione che metà America dicesse ma no, lei ancora, ma insomma chi se ne frega. Sostanzialmente ha reagito così The Iron Lady, la donna di ferro, 2 statuette per il film, l'altra per il trucco. E poi i migliori attori non protagonisti sono stati invece Christopher Plummer e Octavia Spencer. Marta, allora abbiamo parlato di un primato, che è quello di Jean Dujardin, che è il primo attore francese della storia a vincere un Oscar. E c'è un altro primato in questa edizione degli Oscar. Miglior film straniero, A Separation, primo film iraniano a ricevere un Oscar. At this time, many Iranians all over the world are watching us. And I imagine them to be very happy. They are happy. Tanti iraniani in questo momento ci stanno guardando in tutto il mondo, ha detto Asghar Farhadi, e immagino siano molto contenti perché in momenti di conflitto, intimidazione, aggressione, finalmente il nome del nostro paese è pronunciato per la nostra gloriosa cultura, una cultura ricca e antica nascosta dalla pesante polvere della politica. Questo il discorso di Asghar Farhadi. gara di Per a Separation. E poi infine il momento più toccante della cerimonia degli Oscar ogni anno, il momento dedicato all'In Memoriam. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, cantata da Esperanza Spalding, What a Wonderful World, ha accompagnato le immagini di chi ci ha lasciato quest'anno, commozione ovviamente, per Whitney Houston, Steve Jobs, Liz Taylor, ma anche per Jane Russell, Sidney Lumet, Peter Falk e Annie Girardot. Grazie alla nostra Marta Cagnola. Edizione. Sono le 6, 45 minuti e 38 secondi. Di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Un paio di notizie appena battute dalle agenzie. La prima arriva da Mosca. Il primo canale statale della TV russa dice che i servizi segreti ucraini e russi hanno sventato un piano per uccidere il premier Vladimir Putin. Secondo l'emittente, a confessare il progetto sarebbero state alcune persone ricercate a livello internazionale. Non ci sono grandi dettagli dopo il loro arresto ad Odessa, piano che sarebbe dovuto scattare dopo le presidenziali del 4 marzo. Il portavoce di Putin non ha smentito l'informazione ma si è astenuto dal commentarla. Altra notizia che arriva, invece ne parlavamo poco fa, dallo stato indiano meridionale del Kerala, dove ci sono i due militari italiani Massimiliano Latorre e Salvatore Girone in stato di fermo. Negli sviluppi sull'inchiesta dei due pescatori uccisi, il sottosegretario italiano agli esteri Staffan de Mistura è giunto a Kochi, che è la città dove si trovano appunto i due militari, per seguire da vicino i prossimi sviluppi sull'inchiesta. Noi adesso ci occupiamo del G20, che è stato a Città del Messico. Ci sono state le conclusioni nella notte e ci sono state anche dichiarazioni da parte dei vari esponenti, tra cui il governatore della Banca Centrale Europea, il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Buongiorno ad Alessandro Merli, inviato del Sole 24 Ore a Città del Messico. Buongiorno a voi. Inizierei con te dalle parole di questa notte del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, che ha toccato molti argomenti, quello della ripresa ma anche quello delle riforme del mercato del lavoro. Alessandro. Beh, Draghi ha detto sostanzialmente una cosa: l'Europa, che resta un po' l'area più critica dell'economia mondiale, andrà probabilmente incontro in alcuni paesi a una recessione, anche se non grave, e restano dei rischi sui mercati finanziari legati alla crisi del debito sovrano. La BCE farà mercoledì una nuova operazione di fornitura di liquidità alle banche, perché il credito non sta circolando e quindi c'è bisogno di dare un po' di fiato all'economia. Draghi ha sottolineato anche i progressi che sono stati fatti da molti paesi sul fronte sia del consolidamento dei bilanci pubblici ma anche delle riforme strutturali, in particolare delle riforme del mercato del lavoro. Naturalmente è un argomento molto caldo anche in Italia. Draghi ha voluto osservare che è una strada sbagliata, lui non ha citato esplicitamente l'Italia, quella di voler proteggere a tutti i costi i posti di lavoro invece di tutelare i lavoratori, magari ricollocandoli, e ha indicato l'esempio della Germania, dove le riforme del mercato del lavoro molto incisive sono state fatte, e infatti in questo momento la Germania esce dalla crisi con un tasso di disoccupazione molto più basso che altri paesi europei. Alessandro, molto si è parlato di crescita, molto si è parlato naturalmente di Europa, dove la fornitura di risorse, per così dire, per il salvataggio della Grecia è sembrata rappresentare un fronte di tensione tra Bruxelles e gli altri grandi paesi, è così? Sì, soprattutto diciamo al di là del secondo pacchetto Grecia, che era visto come un elemento inevitabile, c'è questo discorso di queste barriere, di questi argini anticontagio che devono essere creati. Gli europei vogliono coinvolgere anche gli altri paesi, ma questi hanno detto, a partire dagli Stati Uniti, ma anche il Giappone, i grandi paesi emergenti, dovete essere prima voi a impegnarvi a risolvere i vostri problemi aumentando la dotazione dei fondi salvastati europei. Questo apparentemente verrà fatto in marzo, nonostante la Germania continui a resistere, e solo dopo allora siamo pronti anche noi a mettere a disposizione dei finanziamenti al fondo monetario, in modo che l'FMI sia pronto eventualmente a soccorrere anche l'Europa se ce ne dovesse essere bisogno. Grazie ad Alessandro Merli, inviato del Sole 24 Ore a Città del Messico per il G20. Alessandro, buona giornata, anzi buonanotte per te e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie dunque ancora ad Alessandro Merli. Un'ultima notizia prima di chiudere: vi abbiamo parlato dell'incendio di ieri pomeriggio sulle alture di Genova, a quanto pare si sta spingendo verso Arenzano, sospinto dal vento, i vigili del fuoco hanno chiesto rinforzi. L'autostrada resta chiusa nel tratto tra Arenzano e il bivio per Milano, come avete sentito anche poco fa, non sono segnalati danni alle persone, il movimento delle fiamme controllate ai vigili del fuoco non interessa direttamente il centro abitato di Arenzano. È veramente tutto, un ringraziamento a Viola Bottoni in redazione, a Peter Bescapè in regia, un grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia una buona giornata, ci risentiamo tra poco con il giornale radio.